Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo di Piombino, già i nostri GR24 vi hanno raccontato sia le parole del Papa che quelle del Premier Matteo Renzi. In realtà è una vicenda che va, come si dice in questi casi, approfondita e ricostruita. Sul perché a Piombino il gruppo Lucchini, che è il terzo gruppo siderurgico italiano, produce 1.200.000 tonnellate e vada a chiudere lo stabilimento. Da domani mattina l'alto forno, infatti, alle 10 in punto, non sarà più alimentato, subirà un periodo di riposo per una ventina di giorni. In gergo si chiama stand by, quindi sarà caricato con il solo coke e non con il minerale. E dopo lo stand by però c'è lo spegnimento. Chiaro che c'è una grossa preoccupazione per le 560 persone occupate, di cui 320 con contratti di solidarietà, e c'è anche preoccupazione per lo stabilimento dell'ArcelorMittal. Anche su quest'ultimo potrebbe infatti pesare un rinnovato in senso positivo accordo sul polo siderurgico della città. E questo è un tema che affronteremo nella seconda ora del programma. Parleremo di nuovo di Alitalia, non solo per la risposta e le bocche cucite di ieri, ma perché qui onestamente io non ci sto capendo più nulla. C'è anche chi avanza oggi sui giornali l'ipotesi che in realtà i soci privati vogliano dire di sì a tutte le richieste che riguardano le richieste di Etihad, quindi di Abu Dhabi, che riguardano il ruolo del governo, e siano più resti per quelle che riguardano invece la loro gestione. Ma tant'è, oggi il Premier Renzi ha detto sull'Italia: aspettiamo la risposta e poi agiremo di conseguenza. Questo per quello che riguarda i due temi principali. In apertura però anche tutte le dichiarazioni del Premier Renzi e del Ministro all'economia Padoan per quello che riguarda il reddito minimo di cittadinanza. È una tesi, ha detto sostanzialmente Renzi, non condivisibile, non creerebbe lavoro, e altre dichiarazioni sugli stipendi ai manager e poi sugli incapienti e le partite IVA. Renzi ha aperto, ha detto, ho preso un impegno sia con le partite IVA che con gli incapienti nel proseguire l'abbassamento delle tasse, e manterrò questo impegno. Per quello che riguarda la borsa invece, oggi la giornata negativa: -1% Milano, -0,60% Parigi, -0,50% Francoforte, invariata Londra. E ancora l'America invece in questo momento invariata anch'essa. Tra i titoli segnalo il Banco Popolare, oggi -4,20%, Azimut -2,40%, Mediobanca -2,20%, come la Pop Milano e Atlantia, ma anche Pirelli. UbiBanca perde il 2% come Mediaset e Moncler, l'1,80% il calo di Mediolanum, di Saipem e di Fiat. Guadagna invece il Monte dei Paschi il 3,34%, Iux +1,80%, Telecom Italia +0,60%, l'euro è a quota 1,3822, 349-238-6666 è il numero per i vostri sms, e poi c'è come sempre anche la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Anche di alcuni sprechi da un lato e iniziative abbastanza singolari dall'altro. Comunque andiamo con ordine, perché per quello che riguarda i temi internazionali da cui sempre partiamo, oggi è soprattutto l'Europa fa notizia, un'altra notizia che riguarda invece la Toyota, e ha a che fare con l'anno fiscale 2013-2014. La Toyota è tornata ad essere la prima compagnia al mondo, e tra l'altro è la prima che ha superato l'obiettivo di 10 milioni di vendite. Ha venduto 10.133.000 autovetture, con un +4,5%, grazie soprattutto agli acquisti in Nord America e in Cina. E un'altra notizia che è arrivata ieri in serata riguarda l'America: il magnate degli hedge fund William Ackman si è alleato con Valeant Pharmaceuticals International e ha presentato assieme appunto a Valeant un'offerta da 46 miliardi, quasi 45 miliardi, 6 di dollari per acquisire il produttore di Botox, il Botox, quello che viene utilizzato nella chirurgia estetica da alcune donne ma anche alcuni uomini. Il produttore si chiama Allergan. Se l'operazione andrà a buon fine, nascerà un colosso della dermatologia e della cosmetica. La cifra è imponente, adesso al di là di qualunque ironia, 46 miliardi quasi per il produttore mondiale di Botox non è poco. Gli Stati Uniti oggi segnalano anche un dato che starebbe a dimostrare una forte crescita delle disuguaglianze, dove la parte, praticamente lo 0,1% più benestante, possiede il 10% della ricchezza complessiva. L'ultimo studio, la società che l'ha realizzato si chiama Demos, riguarda la retribuzione degli amministratori delegati delle catene di fast food come McDonald's o Starbucks. Pensate che il numero uno di McDonald's o di Starbucks guadagna in media 1200 volte, altro che le 10 volte di Olivetti che Renzi ha usato per il manager della pubblica amministrazione, 1200 volte lo stipendio del suo dipendente. Il valore medio in realtà in America è ancora molto alto, a 330 volte quanto guadagna un amministratore delegato rispetto al suo dipendente. Ma la cosa incredibile è che il compenso medio di chi gestisce appunto i fast food è stato di quasi 27 milioni di dollari, ossia 11 mila dollari l'ora, mentre i lavoratori del settore sono tra i meno pagati in assoluto, con un compenso medio di 9 dollari all'ora. Recentemente i dipendenti di McDonald's hanno avanzato richieste per alzare la paga oraria a 15 dollari, ma la dirigenza ha laconicamente replicato che l'eccessiva attenzione sui salari rischia di essere dannosa per la società. Allora, diciamola tutta. Fermo restando che nel settore privato ognuno fa quello che vuole, ci saranno anche degli azionisti, però almeno la decenza salviamola, lo dico a McDonald's, non me ne frega nulla se mi chiamerà l'ufficio stampa di McDonald's Italia. Ma come si fa a dire a chi guadagna 9 dollari all'ora e ne vorrebbe guadagnare 15 che attenzione, c'è un'eccessiva attenzione sui salari dannosa per la società, quando il tuo numero uno piglia 27 milioni di dollari e guadagna 11 mila dollari l'ora? Allora, non esiste persona al mondo, forse qualche rarissimo scienziato che sta lavorando per risolvere le malattie genetiche o qualcuno che si occupi di cose che avranno una ricaduta immensa per l'umanità, ma non esiste persona, manager, a maggior ragione se fai manager di McDonald's, del fast food, di settori conosciuti, che meriti 11.000 dollari all'ora. Non ho problemi a sostenere questo, può scrivermi qualunque manager vuole, 11.000, non esiste persona che possa valere 1200 volte un dipendente, cioè che da sola valga 1200 dipendenti, per favore. Andiamo avanti invece con l'Europa. Allora, il debito dell'area euro è schizzato, anzi, sia quello dell'area euro che dell'area europea 18, è schizzato al massimo storico nel 2013. Praticamente è il 92,6% del totale del PIL dell'area euro ed è l'87% dell'euro a 28, dell'Unione Europea a 28. La Germania ha annullato il suo surplus, ha chiuso il 2013 con un pareggio di bilancio, sostanzialmente ha avuto un avanzo di 190 milioni di euro, quindi deficit pari a zero. Il debito tedesco è calato al 78% del PIL, invece la Francia ha fatto un deficit del 4,3% dal 4,9 del 2012 e un debito in aumento, quindi a guardare queste cifre dovrei dire che sulla correzione dei conti pubblici ha fatto meno la Francia dell'Italia. È vero che poi noi abbiamo un debito che è al 130% del PIL, la Francia ce l'ha al 93%, però se guardiamo gli sforzi mi sembra che tutti i geni di Bruxelles si concentrino sugli sforzi, e allora gli sforzi li ha fatti più l'Italia, che è riuscita a stare sotto il 3% nel 2013. L'Olanda, anche lei andrebbe premiata, dal 4% di deficit nel 2012 è scesa al 2,5%, in Grecia è risalito da un meno 9% di deficit, da un 9% di deficit nel 2012 è schizzata la Grecia al 12,7%, la Spagna è rimasta ferma al 7% di deficit. L'Italia è riuscita, dicevo, a stare sul tetto del 3%, però il debito è salito al 132% del PIL, 132,6, ed abbiamo il debito in rapporto al PIL più alto dopo la Grecia, che ce l'ha al 175%. Però la Grecia ha avuto un avanzo primario, quindi le entrate uscite al netto prima di pagare gli interessi sul debito, migliore delle attese, allo 0,8% del PIL. E su questi temi, anche su questi temi, è intervenuto il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, ha detto a chi gli faceva una domanda sul... con debito in aumento dal 127% al 132%, se il governo saprà rispettare i vincoli, ha detto il ragionamento è complesso, comunque noi rispetteremo i vincoli, nessun rischio di taglio del debito pubblico come in Grecia, chi ha i bot può stare tranquillo, e abbiamo tolto dal patto di stabilità gli interventi sulla scuola, abbiamo ricevuto 4.500 richieste dalle scuole italiane, un controvalore di 3,5 miliardi di euro. E poi ha detto, dopo le province che non sono state abolite, la parte politica è stata abolita ma non la provincia in senso stretto, aboliremo anche gli uffici periferici dello Stato. Abbiamo abolito i politici dalle province, abbiamo eliminato i politici dalle province, i politici dalle province intanto, poi andremo sugli uffici periferici. Faccio un esempio. Che senso ha che la Ragioneria Centrale Generale dello Stato abbia le sedi in tutte le province? Il Botox non è chirurgia estetica, mi scrive un'ascoltatrice. Va bene, confesso la mia ignoranza, anche se non dovrei essere così ignorante, avendo un padre chirurgo plastico, però insomma ho detto che il Botox fa parte della, diciamo, della chirurgia estetica. Comunque la cosa impressionante è l'offerta fatta in America per il produttore di Botox, ripeto, 46 miliardi di dollari. Allora, torniamo a Renzi invece, gli ha detto, beh insomma avete dato una bella mazzata ai manager della pubblica amministrazione, lui ha detto, ha risposto, ma no, mazzata a chi? Solo mazzato, presunta tale, solo a chi prende più di 240.000 euro. Perché un dirigente pubblico in una città con 40.000 abitanti prende dai 60 ai 100.000 euro? Questo era il messaggio che gli era arrivato. La mazzata solo a noi, a loro no? Ecco la risposta di Renzi. Voi sapete che abbiamo messo un tetto allo stipendio massimo di chi lavora nella pubblica amministrazione, 240.000 euro. Qualcuno si è lamentato. 240.000 euro sono 20.000 euro al mese, no, ma di che ti lamenti? Vabbè, lasciamo stare. Mi hanno detto che è demagogia, sarà anche demagogia, mi sembra un principio di buonsenso che ci fa ritornare al grande messaggio di Adriano Olivetti. Dice, ma perché non tagli anche ai parlamentari lo stipendio? Facciamo di più, tagliamo direttamente un terzo dei parlamentari, che è l'operazione di riforma del Senato. E poi l'impegno sugli 80 euro, insomma sulla riduzione della pressione fiscale anche per le partite IVA, gli incapienti e i pensionati, ha detto un impegno che manterremo. Gli 80 euro sono quelli che qualche milionario dice, ah 80 euro, che ci fa uno con 80 euro? Provate a vivere con 1.000 euro al mese e dimmi se 80 euro al mese fissi per sempre, non una tantum, fanno o non fanno la differenza, perché chi si permette oggi di dire che 80 euro non fanno niente sono quelli che sono pieni di soldi. Chi invece fatica a arrivare alla fine del mese sa che anche soltanto 80 euro al mese e ripetuti tutti i mesi possono fare la differenza. Dicevo che questo tema degli 80 euro riguarda 10 milioni di italiani, non riguarda però le partite IVA, e io ho preso impegno con partite IVA, incapienti e pensionati di proseguire nel lavoro iniziato con i dipendenti di abbassamento tasse. Allora, su questo diciamola tutta, è chiaro che 80 euro non ti cambiano la vita, però noi abbiamo spesso criticato anche il premier Renzi quando diciamo dà l'impressione di stare più attento al marketing o alla comunicazione che alla sostanza, però in questo secondo me Renzi ha ragione. E cioè tutti quelli anche all'opposizione che sento dire è fuffa, vabbè, ma voi cosa avete fatto quando governavate? E magari con maggioranze larghissime, 100 deputati di scarto, il nulla. Allora, le tasse abbassate, sì, siamo infilati in quel cul-de-sac dell'IMU che poi è diventata ICI, che poi è dovuta tornare, cioè abbiamo rischiato di fare un pastrocchio anche sull'IMU. Qui c'è una riduzione e secondo me è vero che molti dei maltrapensés al caviale, dei pensatori al caviale che ho letto in questi giorni dicono ma gli 80 euro non cambieranno niente. Allora, sicuramente non ti fanno vivere un'altra vita, però quando tu sei su livelli così bassi di reddito sarà meglio avere 80 euro su base strutturale, questo è il vero punto, che siano fissi anche nel 2015, nel 2016, nel 2017, ma non dire cosa ti cambiano 80 euro, perché sennò fai un discorso un po' al caviale, se mi permettete, cioè di chi questo non ha bisogno, o perché evade, quindi figurati quando evadi quelle cifre gli 80 euro te ne freghi, o perché anche senza evadere ne guadagna molto molto di più, magari ha un rapporto col suo dipendente di decine di volte o centinaia di volte lo stipendio del dipendente. E comunque il benaltrismo è uno dei grandissimi mali di questo paese, continuare a dire che i problemi sono altri, bisogna fare altro, poi però sei più bravi a criticare, bravi in orale in questo paese più che in scritto. Andiamo avanti con Renzi sul reddito minimo di cittadinanza. Questo farà arrabbiare molti ascoltatori, immagino. È opinione di Renzi che il reddito minimo non serva a creare lavoro. Questa è una tesi abbastanza originale, cioè che per creare lavoro si debba fare il reddito minimo di cittadinanza. È una tesi che diciamo la maggior parte degli economisti non condivide. Detto questo, il punto vero è che abbassare le tasse alle imprese, cosa che abbiamo fatto, ovviamente è giusto e doveroso, così come è giusto e doveroso abbassare le tasse alle famiglie e ai lavoratori. Il tema è, non è possibile continuare con un sistema per il quale le tasse crescono nella erronea convinzione di aumentare i servizi. Lo Stato deve restituire qualcosa. Qui sta il grande valore degli 80 euro. Per la prima volta un governo restituisce agli italiani. Anziché dire aumentiamo le tasse, le abbassiamo. E credo che questo sia il fatto più importante. Tesi non condivisibile, o almeno io non sono d'accordo, sul fatto che il reddito minimo di cittadinanza crei posti di lavoro. È misura di giustizia sociale. Poi c'è il reddito minimo di cittadinanza, che è una cosa, e poi ci sono altri strumenti. Il reddito minimo di cittadinanza presuppone che anche il riccone abbia il reddito minimo, cioè che abbia una indennità. Questo è il reddito minimo di cittadinanza, per il fatto stesso che sei cittadino hai un denaro. Poi c'è l'assegno universale di disoccupazione, che è una cosa diversa. Ah, vabbè, vedo che il periodo pasquale è già finito. Dunque, la smetta Barisone di essere fazioso e renziano, si sgonfierà come un pallone, immagino Renzi, non io, ma magari anch'io, e poi vediamo cosa dirà, anche quando c'era Monti lo ha osannato e ha visto che fine ha fatto, allora la consiglio di essere meno fazioso, grazie per il consiglio. C'è anche un ascoltatore che dice, ogni volta che sento Renzi cambio radio, che devo fare? Il Presidente del Consiglio, l'abbiamo fatto sentire tutti, Prodi, Berlusconi, Monti, Letta, no? E magari altri cambiavano radio con altri Presidenti del Consiglio, ma un dovere ce l'abbiamo, si chiama dovere di cronaca. No, sulla faziosità, due cose al volo. Con Monti abbiamo non osannato Monti, abbiamo detto che Monti diciamo, ha preso questo paese sul baratro, un baratro in cui non l'aveva portato lui. Lei se lo ricorda lo spread a 560, vero? Perfetto. Si ricorda che Tremonti, ministro dell'economia, e Berlusconi non si parlavano, vero? Se lo ricorda benissimo. E non è che l'immagine fuori fosse il massimo nella vita, quando il ministro dell'economia, anzi, non solo non parlava, andava anche a criticare il presidente del consiglio. Tutto poi ricostruito da molti libri che stanno uscendo in questi giorni. E abbiamo criticato Monti, vada a risentirsi le puntate, quando dal rigore e la rassicurazione dei mercati, che era comprensibile, parliamo di gennaio, febbraio, marzo del 2012 e quant'altro, lì si è fermato e la famosa crescita non c'è stata, la capacità di andare c'è stata, non c'è stata la capacità di andare in Europa a dire noi facciamo i compiti ma voi la piantate di impiccarci col 3% e via così. E lì l'abbiamo criticato anche quasi ogni giorno, ok? Andamento analogo con Letta. Letta è arrivato, abbiamo preso atto del governo, delle intenzioni, poi quando il governo si è impaludato l'abbiamo criticato, e faremo la stessa cosa con Renzi, vada tranquillo. Ho solo detto che continuare a dire che non serve niente, niente serve a niente, è un discorso sostanzialmente da Gattopardo, che permette a chi ha di mantenere la situazione attuale, che si chiami evasione, che si chiami stipendio altissimo, che si chiami tutela perché sei un manager del pubblico impiego e non hai questi problemi di licenziamenti, ed è un discorso conservatore per non far nulla. Partiamo dagli 80 euro, l'importante è che siano strutturali, che vadano anche gli incapienti. Rispondo ad altri messaggi, gli incapienti sono considerati quelli sotto gli 8.000 euro lordi l'anno, che non pagano le tasse, non hanno carico fiscale, e vadano anche i pensionati. Ma è inutile continuare a dire tanto questo non serve, perché i benaltristi di solito sono dei conservatori menefreghisti. Il ministro Padoan, io lo chiamo Padoan, anche qui non voglio fare altre polemiche, dal bonus da 80 euro vi saranno effetti sul PIL, le famiglie potranno spendere, le imprese investire e il PIL potrebbe crescere più dello 0,8%. Questa è un'operazione che dà a molte famiglie italiane potere d'acquisto in un momento in cui c'è una ripresa fragile. Sono convinto che non solo questo servirà alle famiglie per consumare e spendere di più, ma anche per aumentare la fiducia, e questo vale anche per le imprese. Ed è un'operazione finanziata, anche se non completamente, da coperture permanenti che andranno a regime da partire dall'anno prossimo. Il famoso ricorso minacciato dalle banche contro l'aumento della tassazione sulle quote della Banca d'Italia, già ieri mi sono espresso, secondo me, per carità, non è mai bello ricevere un aumento della tassazione, e vale anche per le banche, però visto il vantaggio che hanno avuto da questa rivalutazione delle quote, insomma, mettiamo sulla bilancia le due cose, non guardiamo solo l'aumento della tassazione per la rivalutazione delle quote. Quando tu avevi una quota che valeva pochi milioni di euro e l'hai rivalutata a decine o a centinaia di milioni di euro, hai avuto un vantaggio nei conti tuoi, perché la stessa partecipazione è come se improvvisamente una casa di cui ho la proprietà non valesse più 50.000 euro ma ne valesse 500.000. Beh, un vantaggio ce l'ho poi nel mio patrimonio, quando vado in banca, quando devo chiedere un prestito, quando mi guardano i bilanci, no? Allora, il commissario alla Spending Review Cottarelli, gli 85.000 esuberi individuati nel pubblico impiego in rapporto all'occupazione non sono molto elevati. Cottarelli poi ha continuato: io propongo, poi decide la politica. Nel 2013 la difesa ha avuto 18 miliardi e mezzo di spesa, ossia l'1,5% del PIL. Ed è possibile, ha aggiunto Cottarelli, pensare a un taglio della spesa per la difesa, anche se ha detto in termini puramente tecnici e non politici. In termini puramente tecnici e di confronto statistico, basandoci su un confronto internazionale che tiene conto dei vincoli dell'Italia, cui l'Italia è sottoposta, una riduzione della spesa rispetto al livello, diciamo, del 2013 per la funzione difesa potrebbe essere considerata. A fronte di questa valutazione esiste già, come sapete, il piano di riforma contenuto nella legge 244 e nei decreti legislativi del gennaio del 2014. Questi non comportano un risparmio di spesa, essendo previsto che ogni risparmio sia destinato a riequilibrio nella composizione della spesa, con una maggiore spesa per esercizio e per investimenti e una minore spesa per il personale. Quindi, se si intendesse andare Oltre, se si intendesse ridurre la spesa nel suo complesso, occorrerebbe integrare questa riforma con nuove misure. In effetti il governo ha di recente deciso di ridurre per il 2014 la spesa per la funzione difesa. Il decreto legge non è ancora uscito, quindi bisogna vedere poi alla fine il numero che ci sarà nel decreto legge come pubblicato, individuando in particolare l'intenzione di ridurre gli investimenti pluriennali attraverso una riduzione degli stanziamenti di bilancio e delle autorizzazioni di spesa che influiscano anche sull'indebitamento netto. Nelle mie raccomandazioni non si propone di chiudere completamente quel gap e soprattutto non si propone di chiudere quel gap in 3 anni. La cifra che corrisponde a quello 0,2 PIL è intorno a un po' più di 3 miliardi, tra i 3 miliardi e 3 miliardi e mezzo, come sapete. Io ho una proposta di riduzione al 2016 che è più bassa, adesso mi sembra che fosse 2 miliardi e mezzo. Allora, così Cottarelli, il quale faceva notare in un passaggio iniziale, attenzione, non ci sono solo i tagli e gli investimenti, ma ci sono i tagli anche ai costi del personale. No, perché lo dico? Perché adesso non voglio entrare di nuovo sugli F-35, io personalmente ritengo, come oggi scrivono alcuni giornali, che si deve molto stare attenti, c'è una fabbrica che va a assemblare questi F-35, se vediamo. Poi si può ragionare se servono 90, tutti 90, però attenzione, perché poi se saltano i contratti salta anche il lavoro di chi li assembla, salta anche il know-how, perché non è solo il lavoro che fai perché assembli un aereo, è il know-how che ti porti in casa e che mantieni in casa. Ecco, se dovessi scegliere, ma non sono io Cottarelli, magari rinunciamo a un po' di generali, di un po' di prebende per i generali, ne abbiamo raccontate anche in questo programma, tutti i diritti che hanno gli aiutanti, l'autista, i generali. Poi c'è questa cosa strana nelle nostre forze armate, che è poco strana in realtà perché riguarda la pensione, e cioè che i colonnelli diventino come ultimo grado tutti i generali, così vai a fare il calcolo sulla pensione, sull'ultimo stipendio. Allora andiamo a tagliare un po' i costi del personale, e anche qui partiamo da quelli che sarebbero i manager, cioè generale d'armata, di corpo d'armata, di divisione, di brigata, poi andiamo giù, poi colonnelli, magari poca roba, però insomma andiamo a ridurre questi costi e anche tutti i benefits, come si chiamano in gergo, e poi vediamo anche se ridurre gli investimenti che creano, visto che l'Italia ha un grosso gruppo che si chiama Finmeccanica nell'aerospazio difesa, creano anche ordini, conoscenza, competenze, ricerca e soprattutto occupati. Vabbè, è iniziata bene oggi la puntata, andiamo col metodo, la pubblicità, e poi parliamo dei corsi di aggiornamento dei dottori di Palermo, un mito, il presidente dell'ordine Salvatore Amato, ma non solo, anche del comune di Foggia che non riesce a pagare le bollette, e della borsa che ha chiuso con un meno 1,20%, poi all'Italia e poi, ahimè, piombino la crisi del polo siderurgico. C'è chiaramente il gruppo Lucchini, ma c'è anche il gruppo Mittal. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, 17:39 minuti, mamma mia che brutta Pasqua che hanno passato alcuni ascoltatori. C'è chi dice, avete criticato Monti e Letta solo quando erano caduti. No, guardi, si sbaglia, abbiamo criticato Berlusconi, Tremonti, Monti, Letta quando i governi si erano impantanati e non c'era più una riforma e solo politica degli annunci. Non ho nessuna simpatia né antipatia personale per Renzi, ho detto solo... E per favore, c'è qualcuno che mi accusa di benaltrismo, casomai siamo troppo diretti in questo programma, ma benaltristi no, che continuare a dire che gli 80 euro non servono, che i problemi sono altri, a me ricorda quelli che stanno appesi su un albero perché dall'alto vedono la situazione e non hanno grossi problemi. Dico, iniziamo così, andiamo avanti con la riduzione fiscale, con la riduzione dell'IRPEF, ma non si può dire che i problemi sono sempre altri. Poi quali sono queste grandi soluzioni che hanno sempre questi scienziati? Poi vorrei sapere anche che lavoro fanno alcuni di loro, così, per curiosità mia, professionale. Allora, invece occupiamoci dei medici di Palermo, perché già ieri diciamo che quando c'è da inventarsi delle cose folli, la penisola altro che lunga è cortissima. Iniziò Bergamo 2 anni fa. La ASL di Bergamo da 2 anni usa il bridge, il gioco delle carte del bridge, per insegnare ai medici a lavorare in squadra e a prendere decisioni rapide in momenti di emergenza. Vabbè, a parte il fatto che io mi aspetto che anche senza il corso di bridge tu sappia lavorare in squadra e prendere decisioni rapide in caso di emergenza, o devo aspettare il corso di bridge? Ma Laura Tidone, medico in pensione e regista di questi corsi, e ha una passione sconfinata per il bridge, diciamo che questo ce l'avevamo un po' immaginato, spiega: siamo stati i primi a fare l'aggiornamento dei medici col bridge, ma da noi è un po' diverso, un corso rende 20 crediti e non sono previsti contributi. Allora, già il fatto che renda 20 crediti, quando criticavamo il pubblico impiego perché giocava a carte, allora stavano tutti quanti facendo aggiornamento professionale per lavorare in gruppo ed essere veloci nel caso di risoluzione di pratica, non lo so, ma stiamo impazzendo veramente? Allora, quando uno viene beccato a leggere il giornale, sta facendo formazione culturale e sta facendo approfondimento, deve capire anche come funziona il mondo. Ma la Tidone tira dritto e vabbè. Il problema è che Bergamo ha dato il cattivo esempio, perché 20 crediti formativi non si possono sentire, per Palermo, che come solito ci mette un carico da 90. Perché? Perché Palermo cosa dice? L'ordine dei medici, il presidente Salvatore Amato, ha lanciato un corso di 10 lezioni sul bridge come sport per tenere allenata la mente. Ma io sono convinto che lo sia, ma te lo fai fuori dal lavoro se vuoi tenere allenata la mente, perché se poi non sei allenato e non funzioni, non è che devo farti il corso di bridge, potrei anche dire che non servi più come medico in un paese normale. No, i medici che frequentano il tavolo da gioco hanno alla fine 36 crediti, cioè quasi il doppio di quelli che dà già Bergamo, ed è praticamente il 70% dei crediti che devono accumulare come aggiornamento in un anno. Per cui loro, facendo 10 lezioni di bridge, ottengono i 2/3 dell'aggiornamento professionale che sono obbligati a fare come crediti in un anno. Fantastico. Non basta, perché l'ordine dei medici dà anche a ciascun medico un contributo di 30 euro, perché capisci, cioè, è uno stress andare a fare... E la canasta, no? Scopone scientifico non lo vogliamo considerare? Mi rendo conto che il 3-7 forse è un po' facile, ma il poker anche ci starebbe. Ma mandiamo direttamente a San Vensane, a Campione, perché lì, voglio dire, ti eserciti anche sotto pressione. Ma comunque, insomma, pensate che i 36 crediti di educazione continua e medicina, cioè quelli di aggiornamento, che si becca un medico di Palermo facendo 10 lezioni sul bridge, equivalgono a quello che ti becchi se partecipi a un congresso ad alto valore formativo. Allora io chiedo al presidente dell'ordine Salvatore Amato, ma lei onestamente, che fa il medico, almeno così da carica diciamo, ma lei è in grado di dirmi che 10 lezioni di bridge equivalgono a partecipare a 2-3 giorni di congresso medico? Ripeto, sono figlio di un medico, qualche congresso l'ho visto anch'io da esterno, ad alto valore formativo, in cui porti i tuoi casi, li esponi, ascolti i casi degli altri, vengono dibattuti, cioè è uguale. Sì, forse per alcuni ospedali sarà anche uguale, ma per favore. Vado rapido sul comune di Foggia, numero uno. Il comune di Foggia è 3 anni che non ha un gestore dell'elettricità, che è una cosa da poco, no? Perché ha bandito 2 gare d'appalto tra il 2009 e il 2013, sempre andate deserte, non si capisce perché nessuno voglia gestire l'elettricità. Allora, cosa succede in questi casi? Quando tu non hai un gestore tuo, devi pagare il cosiddetto gestore di ultima istanza, che io manco sapevo esistesse, ma esiste pure quello, e cioè in questo caso si chiama Eracom, quello che ti fornisce l'elettricità, visto che tu non hai nessuno a cui appaltare il servizio dell'elettricità per i cittadini di Foggia, ok, che pagano pure loro le tasse comunali e tasse. Allora l'Eracom fa pagare molto cara questa bolletta energetica al comune. E tra l'altro, essendo il prestatore di ultima istanza, ha un grosso potere di contratto, quasi, non dico ricatto, ma insomma, o lui o niente, e siccome le strade non possono stare al buio, fa un prezzo che non è possibile contrattare. Conclusione di questo ragionamento: il comune di Foggia si è visto arrivare una bolletta da 9,8 milioni di euro, 10 milioni di euro di bolletta elettrica, 4 volte più di quanto previsto in bilancio, prevedeva al massimo 2 milioni, 2 milioni e mezzo, e di quanto quindi è stato accantonato. Mo si becca un buco da oltre 6 milioni di euro, Allora, ci sono anche colpe del comune, oltre a quella di non essere riuscito a trovare un gestore, perché mancano i controlli sulle utenze, manca un censimento di tutti i contatori intestati al comune, per cui poi lì probabilmente c'è qualcuno che ci mangia sopra. C'è anche uno scollamento tra l'ufficio lavori pubblici e la ragioneria, ma anche l'ufficio contratti, perché da mesi il direttore generale del comune di Foggia sollecita a rivedere la formula di alcuni contratti di servizio, che secondo il direttore generale porterebbero a risparmi nell'ordine di 30-35%. Il risultato per ora sarà che quei 3-4 milioni di euro in più verranno caricati alla cittadinanza, o meglio diventeranno debito fuori bilancio, ci sarà un contenzioso e resteranno lì a galleggiare. Chiudiamo con Napoli, perché Angela Merkel è andata a Pompei, è andata poi a Ischia, si è trovata benissimo, meno male che non ha visto il motorino parcheggiato tra le domus. Non è che il motorino con scavi archeologici che hanno dell'80 davanti Cristo ci stia così bene, secondo me, eh? Un po' come in certi film quando vedevi il gladiatore con l'orologio. Insomma, tra l'altro in un periodo in cui ci sono 15.000 presenze a Pompei contro le 12.000 dell'anno scorso a Pasquetta, nel periodo di Pasqua, ma c'è un motorino parcheggiato e va bene, ma negli scavi di Liternum a Giuliano a Napoli, dove c'è la tomba di Scipione l'Africano, un dettaglio pure qui, capito? In Inghilterra avrebbero creato, capito, un parco archeologico su sta roba. I ragazzi giocano a pallone perché l'erba è alta e quindi anche buona. Il parco è incolto, l'area archeologica, nonostante i bandi, i segnali di divieto, è totalmente priva di controlli, e i ragazzi, giustamente, sulla tomba di Scipione l'Africano giocano a pallone, magari la usano pure come porta, che ne so. Ci chiama. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso la borsa, c'è un ingegnere che mi scrive: per fare 16 ore di corso di aggiornamento pesantissimo su analisi sismiche non lineari ho preso 15 crediti, e invece i medici di Palermo per giocare 10 volte a bridge ne prendono 36 di crediti. Mitico questo paese, è bellissimo. Livia Zancaner, Radio Corio sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Tra l'altro i crediti dobbiamo farli anche noi come giornalisti, quindi magari se l'ordine dei giornalisti a Lombardia vuole ipotizzare 3-7, canasta, poker per l'aggiornamento, ma voglio dire, a sto punto cosa siamo, meno dei medici? Ma ci mancherebbe, no? Ma anche Risico, secondo me, sviluppa la capacità di stare assieme. E la battaglia navale pure la capacità, diciamo, di individuare le mosse dell'avversario, ma facciamo i crediti formativi anche su questo. Vabbè, dai Livia, purtroppo non posso neanche dire torniamo a essere seri, perché tutte le notizie che leggiamo sono vere e serissime. Meno 1,20% Milano, meno 0,70 Parigi, meno 0,60 Francoforte, meno 0,11 Londra e meno 0,11 anche gli Stati Uniti. Da un lato Monte dei Paschi più 3,13%, dall'altro il Banco Popolare meno 4,80%. Sì, allora, il Monte dei Paschi ha chiuso ancora in rialzo, nonostante la decisione di aumentare l'importo dell'aumento di capitale da 3 a 5 miliardi di euro, un'operazione che è stata rinviata al mese di giugno. Secondo gli analisti questa decisione è comunque positiva, poiché appunto rafforza l'istituto dal punto di vista patrimoniale e soprattutto della qualità dell'attivo, che era considerato proprio uno dei punti dolenti dell'istituto. Inoltre l'iniezione di risorse aiuterà la banca a realizzare gli obiettivi del piano al 2017. Per quanto riguarda il Banco Popolare, ha perso appunto oltre il 4%, quasi il 5%, diciamo, registrando la peggiore performance sul FTSE MIB, dopo che ha registrato il tutto esaurito nell'aumento di capitale. Ricordiamo che la trattazione dei diritti si è chiusa la scorsa settimana, mentre oggi è partita la negoziazione in borsa dei diritti inoptati. L'aumento di capitale è stato sottoscritto al 99% circa, per un controvalore quindi complessivo finale di 1,48 miliardi di euro. Allora, no, scusami se sto ridendo, ma è tutto vero, sia sul Monte dei Paschi, per cui da 3 a 5 miliardi si smette anche di consigliare la vendita delle azioni, come tu ricordavi, sia sul Banco Popolare. No, sto ridendo perché sull'aggiornamento dei medici e il bridge come credito formativo, dove cavolo è finito? Mi ha scritto un ascoltatore dicendo: beh, il cardiologo può fare una chiamata a cuori. Ha ragione, nel senso che si inseriscono anche elementi nuovi. E dopodiché, a chi mi dice basta con queste parole di cavolate e poi dà solo 3 minuti alla borsa, la borsa sarà più lunga. Guardi che non sono così cavolate, perché se lei venisse operato a Palermo da un medico che si è preso 38 crediti formativi perché ha fatto 10 lezioni di bridge, poi mi chiama dall'ospedale se ce la fa e mi dice: beh, forse più che la borsa quel giorno valeva la pena parlare dei crediti formativi dei medici di Palermo. Andiamo avanti con la borsa però. Allora, Jux da un lato e Unipolsai dall'altro. Sì, allora, Jux ha chiuso ancora in territorio positivo, ha guadagnato oltre il 2%, ieri aveva guadagnato oltre il 3% ed è spinta in questi giorni da voci di operazioni di acquisizioni e fusioni nel settore del lusso, in particolare dalle indiscrezioni per la possibile offerta di Permira per un ingresso nel capitale della società di Roberto Cavalli, e quindi gli analisti iniziano ad individuare le prossime società target di possibili operazioni di appunto fusione e acquisizione. E dall'altra parte Unipolsai è chiuso in positivo, ha guadagnato lo 0,66%, oggi il Sole 24 Ore ha scritto che la società sta studiando un bond da 500 milioni che verrà utilizzato per ripagare una parte dell'esposizione verso Mediobanca, pari complessivamente a 1,5 miliardi di euro, e la riduzione proprio dei debiti nei confronti di Piazzetta Cuccia è uno dei vincoli che erano stati posti dall'antitrust proprio per aver dato il via libera alla fusione, e l'antitrust ha detto che i debiti devono essere ridotti di almeno 350 milioni di euro. Allora, in rialzo oggi, oltre a Jux, ma parliamo anche di Jux, come appunto Unipolsai, ma dicevo Telecom Italia più 0,90. Allora, su Telecom è ancora l'effetto Recchi? Diciamo di sì, perché altre novità non ce ne sono. Vediamo che... Recchi, il neopresidente Giuseppe Recchi, che ha ricevuto deleghe non scontate, diciamo, nella gestione poi del gruppo. Prego. No, diciamo di sì, perché dall'assemblea che ha nominato il nuovo CDA che si è tenuta il 16 di aprile, le azioni hanno guadagnato più del 6%. Il mercato premia soprattutto il fatto che ora Telecom Italia si trova con un nuovo consiglio di amministrazione formato per la maggior parte da amministratori indipendenti, 10 su 13, e quindi si avvicina maggiormente ad un modello di public company che tanto è stato auspicato dagli azionisti di minoranza. Uh-huh. Ricordiamo inoltre che Telco, che è la holding che detiene il 22,4% uh-huh. di Telecom, a giugno in teoria dovrebbe sciogliersi, quindi probabilmente si va verso un modello più d'azionariato diffuso. Allora Livia, visto che dopo parleremo di nuovo di Alitalia, o meglio cercando di capire, insomma, se sia Etihad a traccheggiare, insomma, a tenere giustamente al coltello della parte del manico, a cercare di ottenere il più possibile, oppure se ci sia una logica anche in quello che chiede Etihad, e quindi è meglio che i soci privati italiani non abbiano troppo la puzza sotto il naso, visto che gli Emirati devono mettere mezzo miliardo di euro, 500 milioni di euro, per una compagnia che ne perde 700 mila di euro al giorno. Però cercheremo di capirlo. Oggi il titolo come si è mosso, anche perché uno degli azionisti di Alitalia è Atlantia. Allora Atlantia, che ha il 7% se non ricordo male, ha risentito di questo stallo su Alitalia? Sì, allora il titolo ha perso il 2,3%, vediamo che comunque il settore utility ha perso oltre l'1% in Europa, quindi probabilmente il titolo Atlantia ha seguito anche il comparto, però diciamo che sicuramente lo stallo sulle trattative tra l'Italia e Etihad ha influito sul titolo, e secondo gli analisti però alla fine un accordo verrà trovato, e ciò rappresenterebbe la migliore soluzione per Atlantia, appunto in quanto verrebbe garantita la natura di hub di Fiumicino, con un impatto positivo sul traffico passeggeri. Allora, per quello che riguarda altri titoli, vorrei concludere oggi tra quelli a maggiore capitalizzazione con Luxottica al volo. servizi. Allora, Luxottica ha chiuso leggermente sotto la parità, meno 0,10%. Gli analisti aspettano i conti trimestrali che verranno comunicati il 29 aprile. Le attese sono più che altro positive e vedranno anche i target del piano per poi giudicare appunto eventuali ripensamenti sul titolo. Allora, grazie a Livia Zancanera, Radio Cori, Sole 24 Ore, migliori e peggiori in assoluto, Mondo TV più 14%, Friendly Energy più 12,80, Bialetti più 9,35, Fiera Milano più 6,70, Fronte Opposto, Isagro meno 7,40, Banco Popolare l'abbiamo detto, e Meta Tecnimo meno 5,14%. Dopo quasi 10 minuti di borsa, così l'ascoltatore tranquillo, mi chiede un ascoltatore, io che gioco a scopa, che lavoro potrei fare? Alle 18:08, riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Non posso fare adesso tutta la puntata sui crediti formativi, ma il tema è serissimo, perché stanno scrivendo, dopo la cosa che abbiamo raccontato dei medici a Palermo, ma avendo copiato un modello già in uso alla ASL di Bergamo, 20 crediti formativi a Bergamo per i corsi di Bridge, Palermo raddoppia, 36 euro di crediti formativi e un contributo anche di 30 euro per partecipare a 10 corsi di Bridge, e praticamente da soli valgono il 70% dei crediti formativi, cioè dell'aggiornamento professionale. Allora, su questo scrivono alcuni ascoltatori, hanno ragione, dicendo il problema è della legge che permette di usare come crediti formativi qualunque cosa, sì, che è troppo lasca, è vero, poi ci mette del suo anche il presidente dell'ordine di Palermo, perché nessuno l'ha obbligato con la pistola a scegliere il Bridge come credito formativo, poteva essere un po' più serio, se mi permette, poi vabbè. Venga in trasmissione quando vuole Salvatore Amato. Un altro medico scrive che gran parte dei crediti formativi per i medici sono organizzati da case farmaceutiche in posti non dietro l'angolo, Barcellona, San Pietroburgo, città amene. Non sente puzza? Sì, la sento. La risposta è sì, in quei casi la sento, perché un credito formativo non può diventare un viaggio di piacere organizzato da una casa farmaceutica, deve essere tipicamente un aggiornamento professionale, nel caso di un medico un corso, per come la capisco io, o la partecipazione a un congresso in cui vengono esposti i casi, la risoluzione dei casi, nuovi modi per curare o per intervenire, per operare, ecco. Vabbè, l'Alitalia, vabbè, un paio di niente, però l'Alitalia, vorrei salutare e ringrazio per essere in collegamento con noi il professor Gregory Aleggi, che insegna gestione delle compagnie aeree alla LUISS di Roma. Buonasera professore. Buonasera. Allora, oggi Renzi ha detto, beh, possiamo farlo sentire, brevissimo, aspettiamo la risposta di Etihad. Aspettiamo la proposta ufficiale Etihad, poi giudicheremo non è corretto, poi agiremo di conseguenza. Il ministro Lupi dice non ho mai sentito parlare di 3.000 tagli e aggiunge poi speriamo che si arrivi a un accordo, prima vediamo se questo matrimonio sia da fare, speriamo che si arrivi a un accordo, sarebbe per noi strategico. Allora, Etihad cosa ha chiesto? Stando a quello che abbiamo capito, 3.000 esuberi, taglio organico fino a 3.000 unità, rinegoziare il debito con uno sconto fino a 400 milioni, il debito che Alitalia ha con le banche, e ripeto, qui c'è un'iCredit più morbida, Intesa San Paolo invece che tiene botta, e poi la liberalizzazione degli slot di Linate a danno di Malpensa, che diventerebbe scalo merci, danno relativo perché l'Italia ha già smobilizzato su Malpensa, scalo merci tranne il volo per Shanghai, e un impegno del governo a servire Fiumicino con l'alta velocità ferroviaria. Allora professore, di queste richieste le sembrano un modo per marmaldeggiare con una compagnia in ginocchio e quindi col governo italiano da parte di Etihad ottenere il massimo possibile, visto che ha il coltello dalla parte del manico, oppure sono richieste, diciamo, che perlomeno sulla carta hanno una loro ratio industriale di rilancio anche della compagnia? È chiaro che qualsiasi trattativa si faccia, meglio farla da una posizione di forza, una posizione in cui non c'è urgenza, che non è la situazione idealitaria. Detto questo, mi sembra che quelle richieste, alcune siano più ammissibili di altre. Ad esempio il governo con le banche non dovrebbe entrarci, sembra un interlocutore non corretto. Il discorso di Malpensa e Linate, che è una cosa che si trascina ormai da decenni, non dovrebbe vedere il governo coinvolto come supporto di Alitalia, che ricordiamoci dal 2008 è ormai privata a tutti gli effetti. Dovrebbe essere una situazione di sistema. Quindi, se prima il sistema era costruito per favorire Alitalia, con tutte le difficoltà del caso, oggi dovrebbe essere invece per favorire i clienti, per favorire il mercato. Discorso delle infrastrutture, dei migliori collegamenti con gli aeroporti, invece è un tema tipicamente governativo, non soltanto per la decisione di farlo, ma per gestire la realizzazione in tempi utili. Etihad, ma la stessa Alitalia, ma qualsiasi operatore in quelle condizioni non può aspettare 5 o 10 anni per un miglioramento del servizio. Quindi mi sembra che l'ultima domanda che rimane, l'ultima condizione era quella dei 3.000 esuberi, io la interpreto non come un via libera politico, che sarebbe la situazione pre-2008 all'Italia pubblica, ma evidentemente una garanzia di copertura per qualche cassa in deroga, per qualche strumento in deroga non ordinario, altrimenti non si vede a che titolo sente il governo con una società che ha un azionariato al 100% privato. Allora, ecco, sul tema, diciamo, industriale, ho capito il suo ragionamento, però la polemica grossa è: puntano più su Linate e vanno a ridurre ulteriormente, perché già l'Italia privata, l'Italia della CAI, aveva ridotto di molto la sua partecipazione su Malpensa, usando Fiumicino come hub per i voli verso gli Stati Uniti, il Nord e il Sud America, anche in arrivo, diciamo, da Abu Dhabi o da altre rotte collegate da Etihad su Fiumicino, e invece Abu Dhabi diventerebbe l'hub per tutti i voli dall'Italia, diciamo, verso l'est, Far East o anche est più vicino. Questo la convince, cioè, dal punto di vista, diciamo, del piano industriale? Cioè, ha un suo senso? Un piano industriale che finalmente punti sul lungo raggio ha molto più senso di quello, diciamo, degli anni di matrimonio o di stretto fidanzamento con Air France, in cui si è puntato sul corto medio raggio. Sul corto medio c'è una competizione pesante dell'alta velocità ferroviaria e delle low cost, no? Quindi quello lì sicuramente era sbagliato. Puntare sul lungo raggio è giusto, sinergizzare con un altro hub in Medio Oriente sicuramente è un'idea buona, visto che l'Italia non ha una flotta di lungo raggio abbastanza forte da coprire direttamente le destinazioni, no? Quindi questi sono i fatti, diciamo, senz'altro positivi. Ecco, la diatriba Roma-Malpensa mi sembra un po' stucchevole, perché non credo che possa essere il governo o comunque un attore non di mercato a stabilire quale debba essere il baricentro della compagnia. Nella storia dell'Italia questo è stato fatto più volte e non ha mai dato risultati positivi. Ecco, e per quello che riguarda Malpensa, perché io capisco anche la preoccupazione dei dipendenti della SEA Handling e del caso Malpensa, fermo restando, ripeto, che abbiamo parlato decine di volte, probabilmente quell'aeroporto è nato con un male fin dall'inizio, immaginando che potesse essere l'hub di tutto il nord, però adesso ce l'abbiamo, è anche un aeroporto, un po' piacere o no, ma insomma bello, funzionale. Allora, il problema di Malpensa qual è? È continuare a trovare altri carrier, penso agli Emirates, ma non solo, che operino al posto dell'Italia? Ma Alitalia attualmente non è che abbia questa offerta strepitosa su Malpensa, quindi la mancanza di qualche volo potrebbe essere facilmente supplita. Non dimentichiamoci che SEA è stata abile cercare alternative dopo il 2008, non tutte, diciamo, ugualmente redditizie, hanno difeso i volumi, perché ovviamente una EasyJet, che è ormai un vettore molto significativo, se non forse quello dominante in termini numerico, ovviamente paga poco, acquista meno servizi e li paga meno, certo. Però, ripeto, mi sembra poco corretto, mi sembrerebbe un passo indietro pretendere che il governo garantisca questo o quello scalo, perché è un governo nazionale, non può essere un governo regionale o cittadino. Quindi no, mi sembra, se posso lanciare una provocazione, io credo che per le grandi città, penso sia Roma che Milano, potrebbe essere interessante vedere di separare la gestione degli scali. Vabbè. Perché a quel punto si metterebbero in concorrenza tra di loro. Attualmente i gestori unici dei diversi scali cittadini tendono ad allocare il traffico per massimizzare il proprio utile, non necessariamente la praticità, la convenienza del servizio per i consumatori. No, ho capito chiaramente quello che lei dice, insomma, Malpensa non può comunque contare su Alitalia, e questa diatriba tra Malpensa e Fiumicino ha già creato abbastanza danni. Cioè, siamo l'unico paese che ha pensato di poter avere due hub. Sì, la Germania ha Francoforte e Monaco di Baviera, ma è un altro paese, è anche un po' più grande di noi, ma insomma siamo l'unico paese con questi volumi che ha pensato di poter gestire e di reggere due hub, due aeroporti da smistamento, Fiumicino e Malpensa. È proprio questo che ha detto l'ultima parola, che è quella secondo me fondamentale, l'aeroporto di smistamento. Si tratta di leggere i flussi e capire chi viene a Roma per proseguire, per cambiare, oppure una destinazione finale. E la stessa cosa Milano, quindi Malpensa, questa è la domanda. Poi sappiamo che il mercato italiano non è perfettamente simmetrico. Il nord, che è più ricco, ha più traffico anche verso l'estero, cioè più vacanze, essendoci un reddito medio maggiore, c'è più gente che va in vacanza. Roma però ha più gente in entrata perché è una destinazione turistica più appetibile. Quindi queste sono delle asimmetrie che purtroppo bisogna, di cui bisogna tener conto. Ecco, in modo ideale coinciderebbero i due flussi. Il protocollo d'intesa sul futuro di Piombino. Ci saranno i ministri dello sviluppo economico, il presidente del ministro del lavoro, il presidente della regione Enrico Rossi, con ministri, il sottosegretario Del Rio e presidente regione. È evidente però che la chiusura dello spengimento dell'alto forno è una brutta notizia per la città, con il protocollo di una pessima notizia, una devastante notizia per la città. La ripartenza però di Piombino passa attraverso una serie di azioni puntuali che abbiamo inserito nel protocollo d'intesa, oltre che ovviamente dalla capacità degli investitori privati di dare un futuro a questa terra che, come immaginate, è particolarmente, alla quale siamo particolarmente legati. Però oggi firmiamo il protocollo d'intesa sul futuro di Piombino con ministri e presidente regione Toscana. Così il Presidente del Consiglio Renzi sulla chiusura dell'altoforno di Piombino. Domani mattina alle 10 inizierà la procedura. E poi però il Vice Ministro dello Sviluppo Economico Claudio De Vincenti ha detto: siamo molto avanti con il testo dell'accordo di programma per Piombino, un bell'accordo, il governo è fino in fondo in sintonia con i lavoratori, riferendosi all'appello di oggi di Papa Francesco sulla necessità di ascoltare i dipendenti. Più pessimista sulle trattative invece è Luciano Gabrielli della FIOM di Livorno, intervistato dal nostro Daniele Scopigno. È una perdita per Piombino e per l'Italia che non si capisce, senza precedenti. Quindi è chiaro che noi siamo contrari a fermare l'alto forno. È chiaro che a questo punto il governo, fermando l'alto forno, bisogna comunque avere un futuro attraverso un accordo di programma che preveda l'investimento a Piombino di forno elettrico e di Corex, che sarebbe sostituto dell'alto forno, più tecnologia ambientale produttiva, per andare avanti, perché Piombino diventa una bomba esplosiva esplosiva, perché chiaramente c'è il ragionamento che dall'oggi al domani si perde 3.000 posti di lavoro e si perde una siderurgia come le rotaie da 108 metri che l'unico produttore è piombino. Sta spengendo la speranza, e quando si spenge la speranza è chiaro che il rischio che ognuno va sulla strada e di cose garanti è sempre presente. Sono 550 persone, di cui 320 con contratti di solidarietà, quelli dipendenti dell'ArcelorMittal, che è un altro impianto che desta preoccupazione a Piombino, oltre a quello chiaramente del gruppo Lucchini. Domani mattina alle 10 l'alto forno non sarà più alimentato, è un simbolo di Piombino, l'alto forno dell'acciaieria della Lucchini. Per 20 giorni verrà alimentato solo con il coke e non con il minerale, e quindi andrà in stand by, dopodiché si spegne definitivamente. Il dopo si potrà scrivere solo dopo il 30 maggio, quando scade la presentazione delle offerte vincolanti per l'acquisizione dello stabilimento Lucchini, che dal 2012 è in amministrazione straordinaria. Potrebbe avere ora la meglio quella della società indiana JSW, passa in secondo piano quella del magnate arabo Khaled Al Abanbe, ma insomma, Mariano Maugeri, inviato del Sole 24 Ore anche a Piombino, buonasera. Ciao, buonasera agli ascoltatori. La domanda è molto semplice: come si è arrivati a una situazione così, diciamo, di coloro che sono sospesi? Quindi l'impianto inizia tutta la procedura per essere chiuso, il 30 maggio è l'ultima data possibile per avere un'offerta. Non si poteva arrivare prima un'offerta prima di iniziare a spegnere l'alto forno. B, com'è possibile che il terzo gruppo siderurgico italiano, che ha 1.200.000 tonnellate l'anno prodotte tra Piombino, Lecco, Condove e Trieste, 2.000 dipendenti, abbia tutte queste difficoltà e in amministrazione controllata dal dicembre del 2012? Quindi è sostanzialmente, come ricordavi tu giustamente, fallita, una società fallita già da 2 anni. Ma l'errore probabilmente è stato quello di voler salvare l'insalvabile, cioè di voler salvare il ciclo integrale, il ciclo a caldo che è alimentato dall'alto forno. Spesso si dimentica che si tratta di un alto forno molto vecchio, tant'è che a differenza di quello di Bagnoli, ti ricorderai che fu smontato pezzo dopo pezzo e venduto ai cinesi, questo alto forno non è vendibile, quindi non è smontabile, morirà per morte naturale, per consunzione, perché ebbe dei problemi già quando fu costruito, anche qualche anno dopo, ed è ormai a fine ciclo pure l'alto forno. Quindi i sindacati, il sindaco di Piombino giustamente dal loro punto di vista e il governatore Rossi hanno cercato in tutti i modi di scovare in giro per il mondo un compratore che comprasse un'azienda che ha accumulato fino ad oggi 800 milioni di perdite. Mission impossible se appunto il sindaco, attraverso un funzionario dirigente della Danieli di Piombino, però che è nato e vissuto a Piombino, non avessero scovato questo sedicente magnate arabo giordano Khaled Al-Babè, che sostiene di voler comprare tutto, di puntare 3 miliardi su Piombino e di trasferire addirittura nel giro di qualche anno l'acciaieria a pochi chilometri da dove si sorge attualmente e dove è nata 150 anni fa, perché ecco quello che spesso si dimentica, che Piombino è la più vecchia acciaieria italiana. L'Italia è cresciuta e si è sviluppata sui binari costruiti nella acciaieria di Piombino, quindi 85 ettari altamente inquinati, perché puoi pensare alle scorie che si accumulano in 150 anni di produzione di acciaio. Ecco, quest'uomo arriva, dice e racconta delle favole bellissime, gli operai sono disperati, si aggrappano a lui, si scopre poi alla fine attraverso un articolo del Sole 24 Ore che quest'uomo non ha i quattrini, non ha i 2 miliardi che gestisce una società tunisina di piatti pronti che ha un capitale di 2 milioni, non solo ha precedenti penali molto pesanti negli Stati Uniti, è stato condannato 2 volte per truffa bancaria e per commercio illegale di anfetamine. Mi fermo qui, personaggino perfetto. C'erano delle offerte. Chissà se mette le anfetamine nei piatti pronti. Vai avanti, Mariano. No, c'erano delle offerte anche italiane che invece tendevano a salvare non l'alto forno, non il ciclo integrale, ma un pezzo della produzione. Per esempio i laminatoi. Con questa operazione si sarebbero anche salvati 1.000 dei 2200 posti di lavoro. Il sindacato, il sindaco, non so bene, su questo tendiamo un velo pietoso la posizione della regione toscana, dicono no, bisogna salvare tutto. Alla fine non si è salvato nulla e domani, purtroppo, con grande mestizia e sofferenza, perché è, come dire, un momento, è un passaggio epocale anche per la siderurgia italiana, morirà l'alto forno di Piombino, il più vecchio appunto del paese. Beh, hai fatto un bellissimo pezzo di giornalismo, Mariano, perché hai spiegato con estrema sintesi come la cattiva gestione, o meglio il massimalismo, la non capacità di comprendere quello che si può salvare e quello che non si può salvare, la demagogia in questo caso da un lato sindacale ma anche della politica, del primo cittadino e probabilmente anche della regione, abbiano portato a questa vicolo cieco, ossia se tu vuoi salvare tutto, anche quello che non è salvabile, non hai compratori se non questo farloccone, per essere buoni, di Abambev, come cavolo si chiama, e in realtà avresti potuto salvare la parte che riguarda i laminati da questo punto di vista fondamentale, stiamo parlando di 1000 dipendenti su 2000 persone, e invece ti ribecchi tutto l'impianto che si blocca, 2000 persone a casa e anche problemi su ArcelorMittal. Domani tornerai a parlarci, intanto grazie a Mariano Maugeri del Sole 24 Ore, inviato più volte anche a Piombino. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci ritroviamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.